li akkumpanjat fuq il-pjano minn Maestro Spiro Sammi serjetikom l-ewwel kanzunetta ta' dan il-programm, Voci Notte. Voce te scelta intannutate, mentre t'abbraccio o sposa tuoi vicino, state scetate, si vostra scetate. Ma fa vedere che dorme suona chine, non gli vicino la strepesta c'è via, perché non può sbaglia sta voce mia. E a stessa a voce, o quando tutto è duio, scuro nuso in c'è, parlava me buia. Si sta voce, te canto dinto cuore, il che uno te cerca non te dica, tutto dormiente e non lontano amore, tutto l'amore e non dormiente amico. Stessa a voce, o quando tutto duia, scuro nuso in c'è, parlava me cuia. Voce notte, fatta intannutata,